Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. È 10 e 7 minuti, buona domenica, era Stefano Gallarini, già vi immagino in molti così sulla costa. Varie, anzi sulle coste varie, sono anche i laghi, ci si dimentica dei laghi spesso, ci sono anche quelli, qualcuno in montagna, molti al mare, altri stanno viaggiando in questo momento e invece moltissimi stanno in città o dove si abita normalmente a ascoltare la radio. Vi ringrazio, ancora buona domenica, ma oggi cercherò con l'argomento che discuteremo nel riposo del guerriero proprio di farvi rilassare, di farvi anche ricordare tanti momenti, immagino belli, della vostra vita. Tra pochissimo vi svelerò infatti l'argomento della giornata. Prima però vi ricordo come sempre l'appuntamento con Manè in 24 minuti. Per voi la possibilità di portare a casa i biglietti per la mostra Palazzo Ducale a Venezia, ammesso che riusciate ad associare uno dei quadri dell'artista alla canzone che vi faccio ascoltare. Tra un bicchier di vino ed un caffè tiravi fuori i tuoi perché. Mi immagino un po' la situazione anche con Manè al bar con quattro amici a parlare dei perché, a vedere il mondo e poi portarlo ovviamente su tela. Questa canzone che avete ascoltato, famosissimo successo di Gino Paoli, si associa a una delle tante opere di Manè, poi vi aiuterò a capire quale e dovrete darmi la risposta più tardi, intorno alle 11.45. Per prenotarvi 800 24 00 24. E veniamo all'argomento di questa domenica. Preparate le vostre cuffie, ormai vanno di moda le cuffie. Mi ricordo che una volta con i Walkman le cuffie si cercavano di nascondere il più possibile, cioè tu non potevi andare in giro e farti vedere con la cuffia in testa, venivi preso per scemo. E invece adesso le cuffie sono sempre più grandi, ovviamente, quindi guai se non si vedono. E allora preparatevi ad alzare il volume della radio, perché oggi parliamo di musica, di icone della musica e di come è cambiata la musica, di cosa c'è di diverso. Sono molte le differenze da, non so, 40 anni fa o anche di più, 50 anni fa a oggi, non soltanto nell'ascolto ma anche in come si fruisce, insomma, la musica. Una volta c'erano i vinile, oggi ci sono gli MP3 e quindi è cambiato anche l'atteggiamento mentale. Abbiamo un ospite in studio che vi presenterò fra pochissimo, ma io, pensando alle icone della musica, insomma, ho pensato a una canzone, sarà banale, ma quella che tutto il mondo conosce. Volare. Felice di stare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. Eccolo qua, è Domenico Modugno, l'originale, questo è quello vero. Tommaso Labranca, anche tu sei vero, buona domenica, ciao. Ciao, sì, sono l'originale Tommaso Labranca. Non esistono copie. Ma per fortuna. Tommaso Labranca, scrittore, conduttore, autore di programmi, fai tante cose. Hai scritto anche tante biografie. Beh, tante. Un po'. Forse sì, facciamo la media. Jimi Hendrix, John Lennon. Sì, Renato Zero, Michael Jackson. Mi ricordo più. Vabbè, sono veri, quindi sono tanti, se non ti ricordi più tu. Orietta Berti, la prima che ho scritto, Orietta Berti. Ma dai. Sì, sì. Come mai ti è venuto in mente di scrivere una biografia? Perché avevamo fatto un programma insieme, sì? È nato l'amore e ho detto: Orietta, scrivono libri su tutti, perché non facciamo un libro su di te? Ragione. Quindi abbiamo fatto una lunghissima intervista. Lei felicissima. Lei felicissima, io di più ancora, è stata una delle esperienze più belle della mia vita. Siamo ancora molto amici, ci sentiamo continuamente. Cucina bene? No, non sa, ecco, vi rivelo questa cosa. Orietta Berti non sa cucinare. Benché avrei detto pensi... assolutamente il contrario. Per assolutamente no, non sa cucinare. Sarà contenta che tu così lo dichiari in questo modo. Ma no, però... lei sa cantare. Beh, questo... E questo è l'importante. Sì. Cucinare è una cosa no, secondaria. Beh, certo, ma ci sono tante cantanti che si sono date alla cucina, eh? E se smettessero di cantare nel frattempo sarebbe anche meglio, capisci? Però no, lei non la cucina, insomma, mangia, ecco. E poi questo, cioè, è dall'altra bene, parte del tavolo. Veniamo invece a Domenico Modugno e questa Volare, che tu dici è una canzone che non è italiana, pur essendo la canzone italiana più famosa del mondo. Ed è strano, perché sì, è una canzone anti-italiana, perché nasce proprio per contrastare il bel canto all'italiana, cioè quello disteso, le vocali, allungate all'infinito. Sì. E invece cosa fa Modugno? Punteggia. All'inglese, infatti. Infatti ha un accento che sembra straniero, cioè addirittura canta in italiano, ma sembra quasi uno straniero che si mette a cantare in italiano. È curioso. Perché il testo è fatto tutto di sillabe brevi. Allora, sì. Perché l'italiano non può mai cantare il rock? Perché abbiamo delle parole troppo lunghe, mentre il rock ha bisogno di sillabe brevi. Sì. Infatti, se ci pensi, è blu dipinto di blu, sì, con te, ma è lo stesso volare, sono tre sillabe, facilissime in tutte le lingue, pensa anche in Giappone, se potrebbero. E forse il successo sta in questo, in questa cantabilità. In realtà, musicalmente, è una canzone francese, non è una canzone italiana, una canzone da chansonnier francesi. L'unica vera, io ti dico, ti dicevo prima che c'è un'altra canzone italiana, sì, che invece ha avuto molto successo, che è Con te partirò di Boselli. Sì, molto più recente. Molto più recente e molto più fintamente italiana, nel senso proprio una furbata. Beh, qua è una grandissima furbata, perché sembra un pezzo lirico, quindi sembra un'aria tratta da un'opera, e non è vero, perché esatto, è stata scritta apposta, e quindi c'è la genialità proprio di chi la doveva portare, Bocelli, in quel caso a Sanremo, e la costruzione, e credo che sia, comunque è una canzone straordinaria da tutti i punti di vista. È una canzone straordinaria, che però dimostra come il pubblico sia un po' disorientato, sì, perché tu proponi una canzone creata appositamente, e la gente pensa sia un pezzo d'opera, tutti. Poi quando così, il buon Pavarotti cominciò a proporci il Nessun Dorma della Turandot, molti credevano fosse una canzone scritta oggi, quindi vedi che c'è molto da lavorare. Abbiamo molta confusione a quanto pare, non so se colpa degli MP3, ne parleremo anche oggi in questo senso. Aggiornamenti sul traffico, poi l'icona della musica, anche con i vostri messaggi, perché avrete anche le vostre, vorremmo sapere quali sono. Il riposo del guerriero. Parliamo di icone della musica e cominciano ad arrivare anche i vostri messaggi con quelle che per voi sono le icone, perché magari vi ricordano un momento particolare della vostra vita. Tommaso Labranca, da dove cominciamo? Dobbiamo tornare indietro nel tempo, no? Cominciamo dal momento in cui nasce la musica attuale, perché io dico sempre che prima di Elvis il mondo era diverso, e dopo Elvis in realtà c'è un mondo unico, anche se uno ha 50 anni e un altro ne ha 18, alla fine i comportamenti sono gli stessi, cioè l'idolo pop è lo stesso. Prima non c'era l'idolo pop, c'era magari la romanza, c'era la canzone d'amore, la canzone romantica, e soprattutto prima di Elvis molti sapevano suonare gli strumenti, cosa che dopo non abbiamo più saputo fare. Cioè, c'era sempre in famiglia una figlia o un figlio che sapeva suonare il piano e intratteneva gli ospiti, anche perché non c'era la TV, non c'era magari, certo, la radio, quindi a casa era d'uso che qualcuno suonasse. Esatto, ma in tutte le case, dagli imperatori che suonavano il flauto fino alle case borghesi, diciamo. Oggi non sa più suonare quasi nessuno, perché comunque dopo Elvis bastava strimpellare la chitarra fino a poi arrivare al punk, e tant'è che negli anni, fine anni 90, la vendita dei giradischi, sì, quelli per fare il turntable, superò la vendita di chitarre elettriche. Questo vuol dire che i giovani non sognavano più di suonare, ma di fare o i produttori o i DJ, e questo è stato un altro anche perché importante. È più facile, no? Apparentemente più facile perché suonare comunque è un impegno. Sì, però nel giradischi non c'è il giro di do. Invece, siccome molti cantautori hanno fatto il loro successo basandosi solo sul giro di do, col giradischi non puoi farlo, no. Al massimo fai un po' di scratch. Quindi il pezzo che ti avevo proposto, sì, è veramente quello che ha cambiato il mondo, ha modificato il mondo. Ecco, quindi tu stai parlando di una canzone che tra l'altro poi è diventata famosa, mm-hmm, anche perché è stata rifatta, sigla dico bene? Sentiamo, di chi? Sigla di Happy Days? No, sbagliato. Ah. Questa canzone era compresa in un film. Sì, quale? In italiano si chiamava Senza tregua il rock and roll, un titolo terrificante. E fu il film che cambiò la vita di Adriano Celentano e quindi cambiò anche la musica italiana. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on, join me, we'll have some fun when the clock strikes. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3 and 4, if the band slows down, we'll yell for more. Allora, qui si ballava rock and roll vero e proprio. Esatto, quindi i ragazzi negli anni 50 andarono al cinema, videro questi qui che un po' anche teppistelli, E veramente cambiò la vita di almeno due persone che ho incontrato io, diciamo, in maniera letteraria, cioè Celentano e Pete Townsend. Sì. Che entrambi andarono al cinema ragazzini e ne uscirono trasformati, perché videro qualcosa e soprattutto ascoltarono qualcosa che non avevano che prima mai non visto c'era. Né ascoltato. Sai che questa canzone fu anche tradotta in italiano dal Quartetto Cetra, cantata in italiano dal Quartetto non Cetra. L'ho trovato. Non ne resta traccia, perché è una versione più jazzata, diciamo. Però di qui comincia la trasformazione della musica attuale, cioè la nascita dell'idolo musicale pop. E quindi qui cominciano a cambiare le cose, da tanti punti di vista. Profondamente, dal punto di vista dell'abbigliamento, dal punto di vista del comportamento, insomma tutto. Senza questa canzone, secondo me, non ci sarebbe stato né il 68, né il punk, niente. Saremmo ancora qui tutti con Pascoli che ci insegna lettere all'università. È entrata così tanto nella vita delle persone che anche personaggi incredibili o comunque che tu non mai associeresti alla musica leggera si sono avvicinati alla musica leggera. Parlo dei calciatori, del mondo del calcio in generale. Antonio Baciocchi, buona domenica. Buona domenica a voi. Allora, Antonio ha pubblicato da poco un libro intitolato Rock and Goal, calcio in musica, e voi all'inizio pensavate che questa cosa non fosse possibile. No, assolutamente, perché quando l'editore Volo Libero ci ha dato l'incarico di sondare un po' il terreno, io e il mio coautore Alberto Galletti eravamo molto molto scettici, perché comunque sì, sapevamo a memoria che c'erano un po' di rapporti appunto tra calcio e musica, qualche calciatore che si era addentrato e aveva osato insomma fare qualche 45 spesso per beneficenza, c'era qualche musicista tifoso che avevano anche dedicato brani alla squadra o al calciatore preferito, però non pensavamo il fenomeno fosse così diffuso e fosse un universo in continua espansione, tanto che a un certo punto abbiamo dovuto interrompere le ricerche, perché altrimenti sarebbero saltato fuori non un libro di 200 pagine ma una Bibbia di 500, perché comunque è un fenomeno diffusissimo. Purtroppo anche tra i calciatori che cantano, perché è un testo dolente che insomma, avendo dovuto per lavoro ascoltare un po' tutto quello che è stato prodotto, insomma, diciamo, i risultati non sono molto lusinghieri per la musica. Ecco, però insomma, io invito gli ascoltatori ad andare su YouTube, perché adesso bisogna far così, anche perché sono introvabili questi dischi. Sì. Allora, di ascoltare Giorgio Chinaglia, che era un centravanti laziale. Football Crazy. Esatto, scusi. So tutto. La branca sa tutto, avrà anche il 45 giri. No, questo no. Ecco, però vendette 70.000 copie. Quant'erano all'epoca 70.000 copie, Antonio? Erano tantissime, perché, cioè, o meglio, tantissime. Diciamo che le vendite erano immensamente superiori rispetto a quelle che purtroppo abbiamo oggi, però 70.000 era un risultato lusinghiero, anche perché il brano di Chinaglia è fra quelli migliori, insomma, che sono stati prodotti dai calciatori, perché era suonato e composto dagli Oliver Onions, i fratelli De Angelis, sì, anche se laziali. E il brano è un bel funky, in cui Giorgione insomma si destreggia anche in maniera discreta, insomma. Ecco, io tra l'altro voglio anche ricordare, mi viene in mente Mina aveva inciso una canzone che si chiamava Ossessione 70 sui mondiali, che tra l'altro è un pezzo molto molto bello. Non era un pezzo italiano, era un pezzo brasiliano che lei aveva rifatto, che è stato in italiano. Testo riscritto. Ecco, ma per caso nel libro parlate anche di quella cassetta, forse l'avevo solo io avevo una cassetta con Gascoigne che cantava, e immagino. Ha fatto un paio di 45 che sono andati addirittura al primo posto della classifica inglese, assieme a un gruppo, i Lindisfarne, che era un gruppo folk rock degli anni 70, e poi fece anche un album di cui si sono perse le tracce e in cui rifaceva ogni Need Slow dei Beatles, insomma si destreggiava anche lui fra varie cose, e comunque ebbe molto molto successo, perché comunque era un calciatore che al di là insomma nelle capacità calcistiche sapeva essere personaggio, lo sa essere per altri motivi anche adesso, però era uno che insomma sapeva coniugare la destrezza sui campi da calcio con lo spettacolo, insomma, e per cui ha sfruttato bene anche questo ambito musicale, perché appunto ha ottenuto anche abbastanza successo. Ecco, Julio Iglesias ha fatto esattamente il contrario, è passato direttamente alla musica e va bene così. Ma anche Christian. Chi se lo ricorda Christian? Christian, ah, sì, Christian, no, me lo ricordo, portiere, adesso anche mente. Lui. Ah, non lo sapevo. Sì, per mi ricordo solo che aveva una madre cassiera di un supermercato. Giusy, cioè, questa... Ferreri. La mamma di Christian è Giusy Ferreri. Abbiamo svelato questa notizia. Perché mi ricordo quando appunto se ne parlava di lui, insomma, ha avuto anche un grande successo in quel periodo, Christian. Comunque un personaggio che un cantante che ha avuto anche un passato da calciatore, oltre a Ligabue che giocava in Serie D, Sì. insospettabile è Luciano Pavarotti, che giocava nell'Alpo Levanto, una squadra minore. Comunque pensare a Pavarotti calciatore, insomma, lascia un po' perplessi, però giocava e pare fosse discretamente dotato ai tempi. Ecco, grazie al vostro libro ho scoperto che anche Maradona ha inciso in tempi anche abbastanza recenti, quindi una decina d'anni fa, un CD. Sì, Maradona aveva fatto un CD anche lì a scopo benefico, ma lui è molto avvezzo, insomma, alla canzone, anche lì con risultati, insomma, non sempre esaltanti, però insomma, ha partecipato a molte trasmissioni, ha cantato in diversi brani. C'è un bellissimo brano che canta nel film che Kusturica gli dedicò, insomma, qualche anno fa, e molto carino, autocelebrativo, in cui questo Maradona, insomma, in uno dei suoi periodi più tragici, insomma, della sua vicenda alterna, canta parlando di se stesso, il passato, di quando era, insomma, in forma e famoso, insomma, un momento molto toccante del film. Ecco Antonio, da quello che si deduce dal vostro libro è che partiamo sì dagli anni 60, ma arriviamo veramente fino ai giorni nostri, cioè questo connubio calcio e musica non ha mai smesso di esistere. No, assolutamente. Si parte da John Charles, il centrale della Juve, che faceva dei brani con un vocione alla Frank Sinatra, si arriva proprio appunto fino ai nostri giorni, in cui la cosa è ancora più diffusa, perché insomma, con le possibilità della tecnologia adesso di incidere più facilmente, E di intonare anche le voci automaticamente, ecco, diciamo così. in particolare, no, sono tantissimi musicisti, ormai è abbastanza diffuso anche in Italia, insomma, fare brani a scopo benefico prevalentemente, mentre in Inghilterra è una cosa invece, diciamo, normale che le squadre, siccome il merchandising in Inghilterra di ogni squadra è molto sentito dai tifosi, perché da sciarpe, programmi, a un po' di tutto, insomma, abitualmente comprano molto. È sempre stato, insomma, usanza fare anche il 45, in cui i calciatori cantano l'inno della squadra, oppure il calciatore da Dalglish, tantissime squadre, insomma, hanno sempre inciso il loro disco. Per cui, tanto più adesso, insomma, che come abbiamo appena detto, insomma, le possibilità sono aumentate. Insomma, prima bisognava andare in studio, fare il vinile, eccetera, adesso è È molto più semplicemente. semplice, puoi anche stare a casa tua, Antonio, Ecco. Antonio, c'è un caso particolare molto molto recente in cui addirittura il calcio non è rappresentato da un calciatore ma da un telecronista. La gloria dei Gotham Project, non so se l'hai presente. No, mi è sfuggita. Allora, nel terzo album dei Gotham Project c'è questo pezzo che si chiama La Gloria, in cui c'è un tango elettronico e c'è questo telecronista argentino molto famoso che fa una telecronaca però parlando dei musicisti. È molto divertente. Io immagino una versione italiana con Fabio Caressa, cioè, Io voglio non la voglio sentirla prima immaginare, della mia morte, ecco. voglio sentire questa cosa. Antonio Baciocchi, grazie. Con Alberto Grazie Galletti hanno scritto Rock and Goal, calcio e musica, passioni pop, edito da Volo Libero. Grazie ancora, buona domenica. a voi. Altrettanto, C'è la grazie. pubblicità, continuiamo a parlare di icone musicali, i vostri messaggi 349-238-6666 ed è Rock Around the Clock, ci sposteremo a qualcosa di italianissimo. Il riposo del guerriero. Scrive Carmen, dice: Salve, ha citato gli MP3, ma non si capisce che quando si ascolta la musica con questo sistema la musica si sente male. Sì, certo, si sente Carmen, male. se lei non è sposata, io la sposo, perché io è una vita che dico, l'MP3 uccide la Per musica. forza, perché taglia le Taglia le frequenze. frequenze. Sì, Allora, per nascondere, è un E argomento di quindi cui mi non c'è sto la occupando. vibrazione dell'acqua, diciamo No, così, del corpo. non Cioè, c'è. E soprattutto no, per è così. rimediare a questa cosa usano queste terrificanti cuffione, come dicevi tu prima, che sono diventate delle icone pop. Perché? Perché sono taroccate. Perché la famosa cuffia del rapper che tutti i nuotatori portavano alle Olimpiadi, non so se ricordi a Londra l'anno scorso, mentre arrivavano in piscina avevano tutti questa cuffia, che fra l'altro è scomodissima, Sì. diciamolo, e la vedi taroccata sui banchetti, così, la boutique du Senegal, ecco. E dà fastidio perché tu hai questa cuffia spaventosa per sentire una musica gracchiante. Ridatemi un giradischi. Ma arriveremo a quello, Ridatemi e un oggi giradischi. ne parleremo, anche di quello. Allora, siamo negli anni 50, No, 60. 60, scusami, 60. e arriviamo, beh, prima, no, stavo prendendo prima, Ah, stavo sì, prima ricordando, sì. partiamo dagli anni 50, per arrivare invece negli anni 60, in Italia succede qualcosa. Sì, ma non solo in Italia, poi ti dirò dove, in un luogo lontanissimo, o quasi. Quindi sentiamo lei? Sì.

Stiamo parlando di icone della musica, stiamo cercando di fare un po' di storia, non so fino a dove arriveremo perché le cose da dire sono davvero tantissime. Con Maurizio Targa, autore di un libro, Ciao Amici Ciao, stiamo parlando di quelle che sono state le vendette, i rancori, le difficoltà all'interno dei gruppi, non soltanto gruppi musicali. E volevo chiudere con te, Maurizio, con la questione Pink Floyd. There is no... Ecco, sì, Emily Play, in questo brano c'è ancora Syd Barrett che fonda i Pink Floyd, però a un certo punto, cioè quasi subito, viene cacciato. Sì. Purtroppo. Syd è stato, diciamo, veramente il fondatore, lui e Roger Waters, sì. Roger, perché anche il vero nome di Syd è Roger Barrett, Roger Waters, l'incontro dei due Roger dà vita ai Pink Floyd, ma è indubbio che fosse Barrett, diciamo, il frontman, la persona, cioè, quello che più incarnava lo spirito dei Floyd. Purtroppo Barrett aveva dei serissimi problemi di tossicodipendenza che vennero praticamente a galla, ecco, subito dopo si Emily Play, uno dei due insieme a Arnold Lane, il primo grande successo. Barrett comincia letteralmente a dare i numeri, a presentarsi in pigiama a trasmissioni televisive, a suonare sempre o non suonare affatto sul palco, diventa quasi immediatamente un peso per la band, quello che era stata la mente creativa, il genio dei Pink Floyd, quello che ipnotizzava il pubblico nei concerti, immediatamente si spegne, è bruciato dall'LSD. Inizialmente viene tentata da Waters una soluzione soft, alla fine la cacciata è stata brutale, praticamente viene scaricato dalla band, non viene passato a prendere quando si tratta di andare ai concerti, viene sostituito da David Gilmour, come tutti sanno, e con anche episodi imbarazzanti, per esempio Barrett possedeva la scaletta dei concerti dei Pink Floyd e puntualmente si presentava tentando di salire sul palco dal quale veniva letteralmente trascinato fuori, finché non più in sé si ritirò a casa della madre a Cambridge. I Pink Floyd, per la verità, tentarono anche, Waters in particolare, di aiutarlo. Sì, di ricoinvolgerlo nuovamente, ma non ci riuscirono ogni volta. Dedicarono Wish You Were Here, insomma, come tutti, sì. Tutti ricordano, Shine On You Crazy Diamond, Brilla Pazzo Diamante, proprio dedicato a lui. E lì c'è stato un episodio toccante, proprio durante le registrazioni. Ecco, si presentò Barrett, è vero? Si presentò Barrett. In studio, probabilmente stavano facendo questo pezzo. Trasandato, tant'è che... non neanche riconoscibile nell'immediato, si presentò, ascoltò le prove di Shine On You Crazy Diamond, in un'atmosfera anche di commozione generale, ma altrettanto rapidamente, così come era ricomparso, altrettanto è scomparso. Barrett, lo ricordiamo, morì poi nel 2006 a soli 60 anni per un tumore al pancreas, ma in realtà era ormai alla deriva da decenni. Invece il mistero forse più grande dopo Syd Barrett è dove è finito Mauro Repetto degli 883, cioè, ma no, doveva anche gli tornare recentemente. C'è una serie di leggende metropolitane che nel libro dettaglio meglio, chi lo vuole, con costume da Pippo Euro Disney. Grazie, cioè, Maurizio, ci sentiamo presto. Ciao amici ciao, lì ti vendette rancore e pacificazioni nella musica pop, nuovi equilibri, e di equilibri parliamo mica tanto, perché questi hanno un po' squilibrato le sorti ancora una volta della musica. Sai che spesso mi dicono: ah, ma tu ti sei vissuto tutti gli anni 80, come ti invidio? Sì. Dico, vabbè, lasciamo perdere. Beh, un po' sì, però, io sono contento di averli vissuti. No, ma gli anni 80, anch'io, però quello che non capiscono i giovani non capiscono che anche se oggi ti chiedono: ma tu stavi dalla parte degli Spandau o dalla parte lì. Di Duran? Volevo arrivare a questo. E allora infatti. Io devo dire, ragazzi, mi facevano schifo entrambi. Io ascoltavo la musica della Foridi, cioè ascoltavo delle cose mortali da suicidio. Col senno di poi devo dire che gli Spandau erano superiori. Gli Spandau sapevano suonare, i Duran facevano casino. Gli Spandauen avevano un'immagine anni 80, nel senso che prima di diventare famosi loro era già suonavano, avevano un forte seguito nei locali londinesi di gente che si vestiva come loro. Quando riconosci l'icona pop? Quando il pubblico comincia a imitarti. Nessuno ha mai imitato i Duran, nessuno si è mai vestito come Simon Le Bon, che fra l'altro insomma vestiva un po' la soralella, ecco, diciamo. Invece l'eccesso di eleganza e di cura che avevano gli Spandau nella musica, era una musica molto più raffinata di quella buzzurra di Simon e compagni, era ispirazione per tutta quella generazione che fu chiamata The New Romantics, se ti ricordi. Sì. Ecco perché sono un'icona musicale. Poi naturalmente si sono dissolti anche loro, oggi è diventato un grasso signore spaventoso. Ma questo è un po' normale, purtroppo, nel senso che le cose cambiano, cambia anche la fisicità, è difficile mantenere la propria. Però non lo so, è meglio nascondersi come Syd Barrett invece di farsi vedere, sennò uno piange, dice no, guarda un po', allora anch'io sono diventato così, no? È un po' sì, ecco, da non tu Tommaso Labranca. No, ma in generale cioè, come le Kessler, quando una delle due gemelle Kessler, sì, dice non guardo mai mia sorella perché dico anch'io sono diventata così, capisci? Una tra l'altro è particolarmente ironica, non mi ricordo quale delle due, ma una delle due è veramente molto ironica. Neanche loro due si riconoscono, quindi neanche loro sanno dire sanno chi è la bene più ironica. Alice o Ellen. Siamo in Inghilterra ovviamente, ma ci spostiamo in quegli anni 80 negli Stati Uniti, dove nasce un'icona che forse icona è ancora oggi. Ma chi è Lady Gaga, voglio dire, in confronto a Madonna? Chi? Eccolo lì. Chi? Lo ho chiesto apposta. La cosa più divertente di Labranca, se potete provocarlo, è veramente la cosa più divertente. Avrei mille domande da fargli che so, però si innervosisce, non andiamo avanti. Ecco. Scommetto, vuoi sapere se io a casa ho un reggiseno alla Jean-Paul Gaultier come quello che portava Madonna con i puntoni? Non ce l'ho. No, ecco. Non ce l'ho. No, però sei di quelli che andava... Sai che Madonna, invece, viveva nella sua vita, viveva nell'ansia di qualcuno che continuava a prelevargli le cose dalla pattumiera. Ah, è vero, sì, sì, sì. Anch'io ho questa paura terrificante. Però dice, non lo so, almeno me le togliessero, così non devo portarle giù io. Ecco, infatti, invece no. Vedi, Madonna, cosa ho detto prima? Che l'icona pop diventa tale quando il pubblico ti imita. Sì. Madonna fa un salto mortale in più, perché non solo le ragazzine la copiavano quando si vestiva ai tempi di Like a Virgin, ti ricordi la biancheria intima portata davanti, il crocifisso, cioè, ma lei stessa si autocita, si autocopia. Cioè, ho letto un'intervista alla costumista in cui dice sì, spesso facciamo dei riferimenti alla Madonna di quel tempo. Questo vuol dire che è talmente diventata icona che lei stessa è vittima di se stessa. Cioè, non so se riesce a seguirmi in questa cosa. T'ho seguito perfettamente, credo che sia anche molto intelligente come sistema. Dici, tanto quello l'ho fatto, non farò mai più niente di più e quindi devo ritornare a quello. Sì, perché comunque per la gente Madonna è ancora quella. Cioè, lei ha fatto 2 milioni di cambiamenti. Sì. Però, a parte il fatto che, diciamo, ce lo siamo pochi, possiamo dirci, cioè, più va avanti più diventa ridicola, perché fa, signora, ha una certa età, cioè siamo quasi coetanei, ha una certa età, si mette lì con la chitarra tipo Carla Bruni e tiri fuori 2 canzoni sussurrate. Per me è ancora il suo fascino, comunque, anzi forse adesso più di prima. Ecco, tu sei uno di quelli che si eccita con Photoshop, capito? No, non è quello, no. Ah, perché tu dici che ormai la vedo solo attraverso Photoshop. Ormai la vediamo solo attraverso Photoshop, scusa. Però Sharon Stone no, l'ho vista recentemente. Ma Sharon Stone non canta. Come bellezza, devo dire che migliora con gli anni, questo che voglio dire, vabbè, insomma, fa niente. L'ho vista recentemente e discutevo, cioè pensavo tra me e me quanto in effetti si può migliorare anche con gli anni, no? Esatto. Si può rimanere belle. Gli anni sono migliori, cioè no, gli anni migliorano più di quanto faccia Photoshop. Ecco, però è vero che Madonna ormai la vedi solo attraverso Photoshop, questo sì. Il riposo del guerriero. Le 11:05 minuti, ancora buona domenica da Stefano Gallarini, parliamo delle icone del rock e del pop in questa puntata del Riposo del Guerriero. Uno tra i messaggi cita: ma chi è questo, riferito a te Tommaso Labranca, che si permette di definire buzzurra la musica dei Duran, ma siamo ancora lì, rispetto a quella degli Spandau? Mi risulta che i primi, cioè i Duran, siano rimasti sulle scene molto più a lungo dei secondi. Oh, là. È bellissimo che dopo 30 anni ci sia ancora questa lotta tra i Duran e gli Spandau. Sì. Dai su, non prendatela, non è che è buzzurro. Sai, così, nella concitazione del momento ho detto buzzurra. In realtà diciamo che la musica dei Duran Duran era più danzereccia, in fondo. Gli Spandau tendevano a fare un po' i raffinatoni, non sempre ci riuscivano, però l'uso del sassofono, per esempio, dava questa idea di stiamo facendo una musica di un certo livello. E i Duran invece erano più popolari. Ecco perché sono durati anche di più. Spero che adesso non mi arriva un altro messaggio del tipo: ma chi è questo? Che dice? Che dice che gli Spandau, eccetera. Comunque è vero, quando tocchi le icone della musica in generale, tocchi sempre le corde di molti, come il tifo nel calcio, stessa cosa. Guarda, parla male del Papa, ma non parlare male dei cantanti, perché una volta ho fatto una recensione poco favorevole delle tattoo. Te le ricordi le tattoo? Non se le ricorda neanche la mamma, penso, queste due russe ormai perse, uccise dalla mafia russa, non so che fine avranno fatto, e avevo detto insomma erano un po' così, non mi convincevano, e una ragazzina mi ha scritto: lei è il peggior verme che striscia sulla faccia della terra. Sì, era una fan delle... adesso se ne vergognerà, scommetto che non lo fa sapere in giro, però ai tempi, stare molto attenti quando si parla di cantanti è proprio così. E adesso invece parliamo non di un cantante, però di un cantante sì, perché insomma lui è dominante, è un gruppo, ma insomma. Is there a time? Stay a time for cutting hair. Is there a time for high street shopping to find the right dress? Non so se tu dici U2 o U2 o gli U2, un po' misto. Io non li chiamo neanche. Allora, dai, risparmiate i soldi del messaggio, non mandate messaggi insultanti, perché fan degli U2. Io non sopporto Bono, io non l'ho mai sopportato dal primo momento che l'ho visto, che è stato nel video di Do They Know It's Christmas, ti ricordi? Sì. Quando lui faceva il suo pezzo con la mano sull'orecchio. Tanto meno l'ho sopportato dopo, quando ho cominciato a fare la Croce Rossina, cioè questo signore che girava col suo jet privato da Sarajevo, ha fatto una scelta, ma che non mi piace. Di mercato, perché... si chiama così, scelta di mercato. Esatto, con anche brutte figure. In questa stessa canzone, a un certo punto, ho letto delle cronache, parla di questa ragazza che fa la prima comunione. E tutti dicono: scusa, Sarajevo era città musulmana, quale prima comunione? Cioè, informati. E nasce proprio in quel periodo, cioè ai tempi della guerra nei Balcani, proprio questo atteggiamento antipatico, odioso del cantante che vuol fare l'impegnato socialmente. Era già nato prima con Mandela. Ai tempi di Mandela, negli anni Ottanta, cominciando appunto dai Simple Minds e così via, c'è stata proprio la rovina, perché hanno cominciato a darsi questo tono da intellettuali impegnati socialmente e hanno lasciato perdere la musica. Ecco, io quando vedo Bono con i suoi occhialoni neri che si mette a parlare, di pontificare di queste cose, di Sarajevo, dei poveri, non lo sopporto. È veramente l'anticona pop per me. Ecco, però esistono dei momenti strettamente legati alla realtà politica e a quella musicale. E c'è Luca Pollini per questo. Ciao Luca, buona domenica. Buongiorno a tutti, ciao. Allora, il tuo libro si intitola Musica leggera, anni di piombo, e racconta la canzone politica proprio che si forma a Milano fra la metà degli anni 60 e la fine degli anni 70. Sì. E succedono molte cose in quel periodo, nascono anche gruppi e cantanti che poi si dedicheranno a qualcosa di completamente diverso, cioè canteranno ancora, ma cose completamente diverse. Sentiamo cosa hai scelto. È la musica. Vabbè, insomma, questa è la traccia per eccellenza, forse. Questo è, diciamo che è il jingle. Sì. Può essere considerato il jingle della canzone di quegli anni lì. Sono stati anni veramente brutti, anni molto violenti, però per quanto riguarda la musica, e soprattutto la musica, è stato un anno di una creatività straordinaria. E ovviamente la musica non poteva che essere influenzata da quel periodo lì, cioè negli anni di piombo cambia completamente il modo di scrivere le canzoni, e cantanti e musicisti cercano l'ispirazione nei cortei in piazza, nelle scuole occupate, nei circoli alternativi, e prendono nei testi, nelle copertine, soprattutto mettono le problematiche, le speranze dei movimenti giovanili e diventano delle icone del movimento. Ecco, chi sono i personaggi che caratterizzano quella scena e che dopo a un certo punto cambiano gli anni e cambiano anche il loro modo di fare musica? Alcuni sono completamente inaspettati, cioè qualcuno non li lega neanche addirittura a quegli anni, perché hanno stravolto completamente la loro musica. Per esempio, cioè, si può benissimo prendere l'esempio di Ricky Gianco, e noi ci ricordiamo nel 1970 a Sanremo con il supergruppo, fa un divertissement, che dove il supergruppo erano, c'era un po' di Dick Dick, un po' di Ribelli, un po' di Camaleon, insomma mette insieme questo gruppo di amici e fa una canzonetta da Sanremo, sì. E poi lui stesso dice, io poi prendo coscienza di quello che mi accade intorno, e fonda una etichetta discografica che si chiama Ultima Spiaggia, già qui il nome è un programma, dove lui inizia a fare anche lì una canzone veramente politica, cioè ci sono tanti esempi, lui e con Gianfranco Manfredi insieme, e passa diciamo dal Festival del Parco Lambro, dal Festival di Sanremo, scusate, al Festival del Parco Lambro. Il Festival del Parco Lambro è stato un po' il centro musicale dell'epoca. Oppure ci sono anche tutti questi cantanti, facciamo gli Area, prendiamo un esempio, anche gli Area, paladini di quel movimento, tanto è vero che Demetrio Stratos fece una dichiarazione, i nostri non sono dischi ma sono progetti politici, quindi sì, questo vi dice tutto. Poi finiscono, quando si accorgono che comunque stanno finendo gli anni di piombo, gli stessi Area cambiano completamente genere, si danno al jazz, iniziano a far canzoni meno politiche, fanno un disco che si intitola Gli dei se ne vanno, gli arrabbiati restano, proprio per dire noi ce ne stiamo andando verso altre esperienze musicali. Luca, e lì Luca, diciamo che poi dimmi. No, sì, c'è stato anche chi ha fatto il passo contrario, cioè dal Festival del Parco Lambro al Festival di Sanremo, l'abbiamo sentito prima. Assolutamente, no, è pieno. È pieno. Prendiamo l'esempio di Alberto Camerini, Camerini. Cioè. Umberto Balsamo credo anche che non so se è sì, stato Balsamo Franco, era impegnatissimo e poi ha cantato L'Angelo Azzurro. Lo stesso, esatto. Franco Battiato era impegnatissimo, poi vabbè, lui dicono che faccia musica colta, va bene tutto, però insomma è stato pieno il mondo insomma di gente che ha fatto anche il percorso contrario, insomma. Però quando uno come Finardi dice se avessero saputo anni fa che sarei andato a Sanremo mi avrebbero ucciso, cioè a un certo punto dimostra anche una certa intelligenza, perché dice non possiamo più fare quelle cose perché il mondo intorno a noi è cambiato. Ma è giusto anche prendere quel, cioè loro stesso nei primi anni 70 si accorgono, appunto Ricky Gianco nei primi anni 70 si accorge che il mondo sta cambiando e i cantanti fanno la realtà, cantano la realtà, cantano quello che c'è, alla fine il mondo sta cambiando. Poi si è entrati negli anni 80 dove a un certo punto è iniziato a valere di tutto, no? Beh, prendiamo Sanremo e Specchio d'Italia, dal 75 all'80 Sanremo non esiste più. Non lo trasmette neanche più la Rai, infatti, per esempio, per dire, no? Lo fa solo via radio. Nell'80 riprende Sanremo e scompare la musica degli anni di piombo, diciamo. Scompare il Parco Lambro. Senti, volevo farti una domanda, anche se tu parli degli anni di piombo, quindi di un periodo diverso da quello odierno, però negli anni di piombo, chiamiamoli così, questi cantanti, questi cantautori erano più spontanei, ho questa impressione. Oggi quando vedi il cantantino che arriva e fa la canzone Sono il paladino dei precari, mi sa tanto di Operazione costruita a tavolino dalla casa discografica, non senti anche tu questa falsità? Ma assolutamente, ma una frase di Finardi nella Musica Ribelle, dove dice tutti quei cantanti con le facce dai bambini e i loro cuori infranti, per esempio, no? Quindi alla fine devi fare una scelta, devi portare a casa la pagnotta, no? Ecco, ma questo sì, è. Cioè, nel senso, ma no, cioè, non potevano, oggi come oggi, cioè, all'epoca, con tutti gli errori del caso, ma ripetiamo, la storia era quella, la gavetta la facevano sui palcoscenici di questi festival, no? E adesso la gavetta non la fanno più perché ci sono i talent dove comunque ti rimettono a posto, ti dicono quello che devi fare, come devi vestirti, come devi lavarti, come devi cantare, cosa devi dire. E non credo neanche sia gavetta, poi io non sono un critico musicale, lungi da me a fare, però secondo me non è neanche gavetta quella, forse era certo, quello è molto diverso dal palco, poi quando si tratta di cantare dal vivo davanti alle persone, bravo, le no, cose cambiano completamente. Una cosa volevo dire poi, che nel 76 a un certo punto anche cantare era diventato difficile, ci ricorderemo tutto il processo che fecero a De Gregori nel 1976 al Palalido, cioè questi qui dopo essere stati inneggiati perché comunque portavano avanti le istanze del movimento, a loro volta erano stati criticati perché la musica diventavano ricchi e c'era la notorietà che non piaceva e venivano processati uno per uno sul palco, lo stesso Finardi, De Gregori, De André. Certo, perché tradisci un ideale, a quel punto tu hai tradito quello che apparentemente hai raccontato fino a prima, esatto. Certo. Lo vedessero oggi De Gregori al Festival dei Telefonini, chissà che direbbero. Luca Pulini, ti ringrazio, voglio ricordare ancora il libro, intanto il tuo blog che è retrovisore.net, Musica Leggera, Anni di Piombo, onore play l'edizione, buona domenica, grazie. Grazie Stefano, grazie a tutti. Prima di aggiornamenti sul traffico vi ricordo anche la nostra pagina Facebook del Riposo del Guerriero, dove ci sono l'elenco delle tracce di cui stiamo discutendo e anche i libri che hanno scritto i nostri ospiti. Il riposo del guerriero. Tommaso, oggi sei tu il bersagliato, ovviamente. Cos'è? Ti permetti di dire Bono, delle cose. Ha scritto Bono, più o meno. Sono The Edge, grazie per aver parlato mai di Bono. Se il suo ospite ha visto Bono per la prima volta in video con Feed the War, forse si è perso un po' di anni precedenti. E non sai quanto sia felice di averli persi. Allora, il problema è che Bono fa rock, no? Io il rock l'ho sempre detestato, cioè io sono uno che, cioè, mi piace la musica elettronica, quella assolutamente impersonale, quella che non suda, pure la musica rarefatta, cioè, per esempio io sono uno dei principali fan dei Sigur Rós in Italia e soffro perché è andato via il tastierista, sono rimasti in tre, giusto per dire, appunto, gruppi che si sfaldano, quindi sì. Quando vedo le chitarrate, le schitarrate, le batterie, questi che sudano, si spogliano, dico no grazie. Non fa per te. Non fa per me, ecco no. Perché. Questa è la risposta. Questa è la risposta. Comunque, ti ho detto, non toccare i cantanti che poi... No, però è divertente perché è bello questo fanatismo, perché comunque i cantanti in qualche modo ci rappresentano per una ragione o per l'altra. Ma sì, se non ci fosse questo fanatismo non saremmo qui a parlare di icone pop, perché sarebbero dei prosciutti i cantanti. Invece no, è qualcosa che sentiamo molto, molto solo vicino. Che una volta si toccavano molto di più, no? Le copertine dei dischi, il vinile. Oggi è tutto un po' più nell'aria. È più nell'aria, ma nello stesso tempo hai l'idea di essere più vicino al cantante, perché vai sul suo blog, vedi, ricevi i suoi tweet, sì. Cioè hai questa idea di sta parlando a me. Sì, quindi è un tuo amico, cosa che prima era impossibile, prima era molto filtrato, più inarrivabile, no? Ma tu avete tolti i grandi nomi, cioè i cantanti che hanno comunque successo, spesso sono proprio loro a scrivere e ad avere questo rapporto col pubblico. È chiaro, perché così mantengono la loro popolarità. Questa è anche una cosa bella, capisci? Non vedi più come una cosa distante. Sì, è uno più bravo di te perché ha fatto delle cose che tu non saprai mai fare. Io, per esempio, anche se ho delle grandi così, insofferenze verso certi cantanti, tipo appunto Bono, in realtà io ammiro tutti quelli che suonano, perché fanno una cosa che io non so fare, che è suonare e comporre musica, che comunque avrei tanto voluto fare, perché amando così tanto la musica, certo. Capisci? Per cui poi naturalmente nascono i gusti e io poi esagero anche sempre. Ecco, un po'. Infatti, a proposito di gusti, non so perché tu... Cioè, per quale motivo tu hai scelto questa canzone? Perché? Cioè, avresti voluto anche tu aprire le braccia guardando l'immensità dell'oceano. No, in primo luogo l'ho scelta perché penso che innegabilmente sia una delle più brutte canzoni che sono mai state scritte. C'è un motivo, c'è un motivo. Allora. È veramente una canzone brutta. È un motivo contrario. Per esempio con quel flautino lì, cos'è, quell'ottavino, quello zufolotto. Basta. Ma racconta una storia d'amore straordinaria. Racconta una storia d'amore straordinaria e qui hai un caso particolare di icona pop. In cui non c'è più il cantante, cioè non è Céline Dion l'icona pop. Ma è quello che rappresenta quella canzone, quel film e tutto il resto. E quindi diventava Leonardo DiCaprio, sì. Più che altro, cioè tutto scompariva la nave, c'era Leonardo DiCaprio, quindi la fan di Leonardo DiCaprio lo legava a questa canzone, quindi hai veramente un andare oltre l'icona pop, non è più il cantante che suona e tu lo adori perché sta suonando quel pezzo, solo per questo motivo l'ho messo, perché in quel periodo, se ti ricorderai, appunto nella fine degli anni 90, era un po' scemata questo mondo delle icone pop, stavano finendo tutte le boy band, e i gruppi erano, c'era tanta musica fatta da progetti inesistenti, tutti quelli che so della dance romagnola. Secondo te la musica si è fermata alla fine degli anni 80? No, la musica è andata avanti, c'è tuttora, soltanto che come in tutti i settori della nostra vita abbiamo scoperto che c'è un patrimonio enorme alle nostre spalle e quindi continuiamo a usarlo. Non a caso ho messo il numero 10, non a caso ho messo numero 10. Ah, vuoi proprio che io la faccia ascoltare fa schifo anche a me personalmente, è una sofferenza, ma dobbiamo farla ascoltare per motivi di informazione. Allora, spegnete la radio per qualche secondo, abbassate il volume, quantomeno abbassate il volume. Allora, il concetto è che in questo momento non esistono più i cantanti, ma esistono i DJ che costruiscono musica grazie ai cantanti che nel passato hanno cantato veramente delle cose. Esatto. Dunque, in questo ci ha rovinati un po' internet, perché internet cosa è diventato? È diventato un grande archivio di tutto quello che abbiamo fatto. Basta andare su YouTube, capisci che vedi tutto quello che è stato fatto dai Fratelli Lumiere in poi. Ecco. E quindi invece di creare qualcosa di nuovo, dici vabbè, riprendo e rifaccio. Poi si può fare, rifare, sì. In maniera. Ho preso l'esempio di Bob Sinclair perché un tempo... Beh, un'icona Bob Sinclair sicuramente lo è. Per carità, non posso dire che, come diceva mia nonna, quando aveva una cosa molto brutta davanti, mia nonna diceva fa cadere le mutande, perché non si parla di mutande con Bob Sinclair, perché si subentra poi nella pubblicità, visto che sai i suoi legami, sì, con... sì. Si presenta sempre con i box, il povero uomo non può indossare uno smoking. Questo... No. Ecco, e quindi in questo caso, spero che l'ascoltatrice di prima non si offenda, questo è veramente buzzurro però, capisci? Questo è buzzurro. E l'icona pop non è tanto lui con le sue mutande quanto la Carrà. Sì. E quindi vedi che è la persistenza dell'icona pop che attraversa generazioni. Questo pezzo l'hanno ballato ragazzini che non hanno mai visto la Carrà. Ecco, però la mia domanda è: avranno mai recuperato il pezzo della Carrà originale? No, come non l'hanno fatto quando qualche anno fa uscì quel pezzo che si chiamava Crying at the Discotheque, te lo ricordi? Sì. Questi svedesi che riprendevano Spacer di Sheila, Be Devotion. E quando un mio giovane amico ascoltò Sheila disse: ma come, hanno rifatto già il pezzo? Sì, ecco, poi tanti pensano proprio quello, che il rifacimento sia in realtà il contrario, sì, la partenza è quella. La togliamo? Grazie. Se possiamo toglierla. Oh, grazie. Cenzo Mazza, presidente di FIMI, che è la Federazione Industria Musicale Italiana. Enzo, buona domenica. Buona domenica a tutti. Ecco, allora, io perché volevo chiudere insomma questa chiacchierata, può abbassare un po' la radio per cortesia, Mazza, o togliere il viva voce se lo sta usando, perché io ho un eco fastidiosissimo. Ecco, allora dicevo, volevo chiudere con Mazza perché volevo capire la musica dove sta andando, nel senso che sappiamo che grazie alla rete, l'ha appena citata sotto Tommaso Labranca, è tutto fruibile, tutto scaricabile anche gratuitamente, purtroppo appunto, e quindi qualcosa sta succedendo anche dal punto di vista del mercato, qualcosa, bisogna capire che cosa sta succedendo davvero. Enzo Mazza. Ma in realtà sta accadendo quello che è un'evoluzione di un settore che si è trovato di fronte a una rivoluzione, quella appunto digitale, tra l'altro una rivoluzione guidata dal basso, perché è una rivoluzione che è stata in qualche parte guidata dai consumatori che hanno cercato di avere la propria musica in qualsiasi istante, in qualsiasi luogo e con archivi immensi. Dopo una fase iniziale in cui ovviamente affrontare questa rivoluzione, passare dal modello di plastica, quello del CD, del vinile, al modello liquido, quello del download, è stato difficoltoso, adesso mi sembra che l'industria abbia, anzi una delle prime ad aver trovato dei modelli di business insieme con dei partner importanti che sta dando delle risposte, quindi pensiamo alla musica in streaming, l'ultimo fenomeno diciamo di massa, quello che sta in questo momento trasformando il settore, ma prima ancora la musica in download, quindi il fenomeno. Ecco, sì, cioè tu paghi un abbonamento mensile che normalmente è sui 10 euro e hai la possibilità di ascoltare la musica, tutta la musica che vuoi, solo di ascoltarla però non di possederla, ecco. Posso ascoltarla, posso avere anche dei sistemi basati sulla pubblicità, pensiamo anche allo stesso YouTube dove la buona parte del contenuto è contenuto per quanto riguarda la musica ormai legale o monetizzabile, nel senso che le aziende utilizzano anche brani fatti da video fatti a livello personale, user generated, però con un sottofondo di musica, sì, ufficiale, i numeri importanti vengono monetizzati e portano addirittura dei ritorni economici non indifferenti. Ecco, la mia domanda è visto il cambio, visto che tutto è fruibile attraverso lo streaming, quindi la possibilità di avere senza avere fisicamente, non è che fa in modo di spingere a pensare che la proprietà intellettuale non abbia un costo, un valore? Questo vale anche non solo per la musica, no? Ma vale anche per, non so, lo scritto, per esempio, per cui siamo abituati ormai a leggere le notizie in modo assolutamente gratuito, come se i giornalisti non dovessero essere pagati per fare il loro mestiere. E non ci sono più le copertine dei dischi, è un altro mercato che se ne va. Io avrei voluto dedicare una parte di questa puntata alle copertine dei dischi, non ce l'abbiamo fatta, magari lo faremo in futuro. Mazza. Beh, uno dei paradossi, per esempio, è che l'anno scorso è stato l'anno nel quale si sono venduti più vinili dal 1977, quindi pur parlando ovviamente di un fenomeno di nicchia, però c'è anche questo ritorno, pensiamo anche all'offerta di alcune piattaforme che consentono di acquistare i CD e poi o i vinili e poi trovarsi nella nuvola i brani in MP3 di questi vinili per ascoltarli poi attraverso dei device mobili, è un'integrazione oramai di consumi e di modelli di consumo che sono completamente diversi dal passato. Oramai si dice che il prossimo futuro della musica in streaming sarà guidato dalle automobili, quindi dai costruttori di automobili che utilizzeranno all'interno della propria offerta la presenza di streaming, di servizi di streaming musicali come Plus per andare a competere con altri produttori di veicoli. Quindi la musica di fatto è oggi una commodity, se vogliamo usare questo termine un po' brutto, però dall'altra parte sta raggiungendo milioni di consumatori in più rispetto a quello che le raggiungeva quando era un fenomeno legato al supporto fisico. Sì, ecco, quindi sta chiamando tutto in questo senso, però ecco, diciamo che questa crisi che c'è stata è dovuta anche al fatto che in qualche modo si è dovuto trovare un sistema, no, per non cancellare la rete, perché assolutamente no, ma per sfruttarla a questo punto. Sì, trasformarla in una enorme opportunità per veicolare contenuti. Questo appunto è stato il primo caso della musica, ma poi lo sarà per tutti. Sì. Fenomeni legati alla produzione culturale, cinema, televisione, libri, quanti giornali. E in realtà la grande sfida è quella che appunto diceva anche lei prima, come riuscire a monetizzare questi consumi che sono ancora per lo più gratuiti o difficilmente. Infatti io ribadisco, cioè questa almeno è la mia opinione, che per monetizzare i contenuti bisogna far passare il messaggio che la proprietà intellettuale va pagata, cioè questo che non è gratuita, cioè lo sforzo intellettuale ha un valore economico, ha un valore monetario, cosa che invece ormai passa un po' in secondo piano, purtroppo. Si è più disposti a spendere un sacco di soldi per un device, per un telefonino, per un lettore Però mi auguro solo una cosa, che le radio imparino da internet, che le radio imparino da Spotify, da tutti questi sistemi, perché va trasmessa tutta la musica. Purtroppo le radio, soprattutto quelle molto famose, trasmettono solo i 5 dischi, Tiziano Ferro, la Pausini, Ligabue, eccetera, e tutto il resto della musica. Ma tu sai come funzionano, questo è un altro discorso. Assolutamente sì, in questo senso sicuro. Grazie Enzo Mazza, intanto buona domenica, presidente del FIMI, grazie davvero alla Federazione Industria Musicale Italiana. Io sono convinto che ad esempio i nuovi software che ti fanno ascoltare altri autori vicini al genere che stai ascoltando sia un ottimo sistema per conoscere cose che altrimenti non conosceresti, quindi ben vengano. Perfetto. E non so se sei d'accordo con me sulla proprietà intellettuale, insomma io scritto sia e sì. No, ma al di là di questo, il fatto di avere tutto a disposizione, tutto gratis, allora sembra che nessuno ci abbia lavorato. Invece costruire una canzone. Io ascolto molta musica, diciamo, gratuitamente, però poi quando c'è qualcosa che mi piace, come si dovrebbe fare, uno cosa fa? Lo compra, ma proprio il supporto fisico. Ho l'impressione che andremo alla forza di chi ancora saprà suonare e saprà cantare, perché il vivo, cioè quindi le esibizioni dal vivo, saranno il modo vincente per monetizzare chi fa questo mestiere, insomma. Tradotto, solo dai concerti i cantanti guadagnano. Esatto, anche quelle meno importanti, perché è così. E quindi chi è bravo va avanti, chi sono sta a casa. Grazie Tommaso Labrancia. Ma è già finito. Però guarda, se vuoi faremo un'altra puntata, perché mancano tante cose, tra cui le copertine delle quali avrei voluto parlare. Va bene, parleremo. E che mi manca un po' il fatto che non ci siano più. Insomma, anche chi fa la radio da tanti anni, insomma, ha imparato a conoscere la musica grazie anche alle copertine che si leggevano, perché dovevi dire delle cose in onda. E compravi i dischi basandoti sulle copertine. Anche. Ma ne parleremo, dai. Grazie intanto, ma continua il riposo del guerriero, tra pochissimo con la pagina dedicata ai giochi videogiochi legati ancora al mondo della musica e poi il nostro gastronauta, e sapete, la possibilità di portarvi a casa anche i biglietti per Manet, Ritorno a Venezia, la mostra a Palazzo Ducale. Il numero è verde per prenotarvi, 800 24 0024. Il riposo del guerriero, giochi e videogiochi. Non parliamo di icone della musica per quanto riguarda almeno i giochi, ma parliamo di icone dei giochi, perché insomma anche questi hanno delle vere e proprie icone, oppure titoli che lo diventeranno, visto che parliamo di titoli che hanno appena vinto un premio molto ambito. Noi italiani purtroppo non ce l'abbiamo fatta, e vediamo un po' di cosa si tratta. Ciao Andrea Ligabue. Ciao Stefano e buona domenica a tutti. Sì, parliamo di icone perché diciamo il simbolo dello Spiel des Arts, che è il classico pedone, diciamo il pedone degli scacchi, sembra è veramente un'icona a livello mondiale che identifica e caratterizza i giochi che davvero sono i migliori al mondo per un pubblico, diciamo, non di appassionati, ma per un pubblico di giocatori, come potrebbero essere le famiglie, gli occasionali, gente che ha voglia di sedersi intorno a un tavolo e passare una mezz'oretta, un'oretta di allegria e di divertimento. Tutti e due i giochi sono caratterizzati dall'essere giochi collaborativi, quindi si gioca tutti insieme, si collabora contro il gioco. Quindi il gioco pone davanti ai giocatori delle difficoltà e tutti insieme collaborando bisogna riuscire a superarle. Anabi è un gioco molto curioso perché i giocatori hanno delle carte numerate in colori diversi e ogni giocatore tiene le sue carte non rivolte verso se stesso ma rivolte verso gli altri, quindi tutti gli altri giocatori sanno le carte che tu hai in mano ma tu conosci quelle degli altri giocatori ma non le tue, e nel tuo turno quello che tu puoi fare è o giocare una delle tue carte oppure dire a uno degli altri giocatori, dare un'indicazione su quale carte ha. E tutti insieme in questo modo bisogna riuscire a far sì che le carte vengano giocate nella giusta sequenza senza commettere errori. Ogni volta che si commette un errore, diciamo, il gioco avanza e se se ne commettono troppi il gioco finisce. Ecco, ma tu devi riuscire a capire quindi le carte che possiedi? Sì, esatto. Io posso dare un consiglio all'altro, ad esempio dirgli, non so, hai tre carte rosse oppure hai due due oppure la carta più a destra è un tre. Insomma, consigli di questo tipo. Devi cercare di capire quali sono le tue carte per, insomma, sapere se la devi giocare o meno. Per cui esatto, c'è... perché nel tuo turno o dai un consiglio o giochi una carta. E non puoi non fare nessuna di queste due cose. Bene. E l'altro gioco, Le leggende di Andor, invece vede i giocatori nei panni di un gruppo di avventurieri che deve riuscire a risolvere in un mondo fantasy una serie di missioni, anche qua diciamo collaborando insieme, e il gioco metterà il gruppo di personaggi di fronte a delle sfide sempre più difficili che prevedono sia dei combattimenti ma anche il saper sfruttare le caratteristiche dei quattro personaggi in gioco nella maniera migliore. Ecco, mi piace il fatto che comunque ormai i titoli stanno diventando collaborativi, per cui non si gioca più per conto proprio, anche se poi c'è un vincitore alla fine, però è bello il fatto che molte regole tengano in considerazione l'unità, il gruppo, cioè il venirsi anche incontro. Quindi questo spero che sia anche un buon insegnamento per quanto riguarda la vita personale di noi tutti. Grazie, ciao Andrea. Ciao Stefano, buona domenica a tutti. Per quanto riguarda i videogiochi, inizio parlandovi di un'icona davvero mondiale, Michael Jackson. Avete in casa un guanto bianco? Bene, riempitelo di pagliette e preparatevi a diventare il re del pop. Michael Jackson The Experience per Xbox 360 con Kinect e PlayStation 3 con Move è stato completamente ripensato rispetto alla versione per Nintendo Wii. Nel caso di Xbox 360 è stato ripensato per poter integrare tutte le possibilità offerte dalla periferica Kinect. All'inizio del gioco la telecamera inquadrerà il vostro corpo e ve lo mostrerà a schermo riempiendolo di stelline, un po' come il guanto di Michael. E una volta posizionati, preparatevi a seguire i vostri coreografi. Ciao, sono Travis Payne. Ciao, sono Maris da Parigi. Ciao, mi chiamo Brahim. Benvenuto a Michael Jackson The Experience. Ora ti mostreremo alcuni dei tuoi passi preferiti. Lo scopo del gioco è ovviamente quello di ballare e cantare come la star più famosa del mondo, e per farlo dovrete iniziare dallo studio dei passi. Ogni canzone presente nel titolo è accompagnata da diversi video dove i coreografi illustrano i passi che dovrete poi eseguire durante l'esibizione. E il mio consiglio è di vedere ogni video più volte per imparare bene tutte le sequenze coreografiche. Ora vi mostreremo alcuni passi di Smooth Criminal. Per il pre-ritornello, voltati da questa parte. 5, 6, 7, 8. Annie, are you okay? Annie, are you okay? Are you okay, Annie? Ora che avete imparato i passi di Smooth Criminal, è il momento di passare all'esibizione. Ma prima, la seconda parte del nostro gioco, che vi permette di portarvi a casa un buono da 300 euro da spendere online o nei punti vendita Unieuro. Livello 2. Che è tale e nient'altro. Torniamo a parlare di Michael Jackson The Experience. Innanzitutto voglio precisare che il gioco è stato concepito e proposto a Michael Jackson prima della sua morte e che il desiderio di Michael è sempre stato quello di poter avvalersi di nuove tecnologie che permettessero a tutti i fan di provare le sue abilità artistiche in modo assolutamente inedito. Ora vediamo le differenze principali fra le versioni Xbox 360 con Kinect e PlayStation 3 con il sensore Move. La versione Xbox 360 di Michael Jackson The Experience sfrutta la tecnologia Player Projection di Ubisoft, che utilizza la telecamera integrata di Kinect per catturare l'immagine del giocatore e inserirla negli scenari di gioco, ispirati sia ai video sia ai concerti più famosi di Michael. e così i giocatori, senza l'ausilio di alcun controller, ottengono un punteggio in base alla fedeltà delle loro mosse di ballo rispetto alla coreografia proposta, ma anche per la loro abilità nel cantare i brani più popolari di Michael utilizzando il microfono di Kinect. La versione PlayStation 3 di Michael Jackson Experience invece offre un'esperienza di gioco in alta definizione e comandi assolutamente precisi, grazie proprio al controller di movimento PS Move, ed è possibile scattare foto all'interno del gioco per poi pubblicarle direttamente nella propria pagina di Facebook. In entrambe le versioni esiste poi la possibilità di sfidare altri giocatori sulle stesse canzoni. Infine, grazie alla tecnologia Pitch Controller, mentre cantate vi verrà corretta automaticamente l'intonazione per evitare di rovinare le orecchie ai vostri amici e rendere quindi le cose un pochino più semplici. Quando si parla di icone della musica non si possono escludere i grandi chitarristi e i grandi bassisti. C'è un gioco che vi fa suonare sul serio. Rocksmith è il primo videogioco della storia che permette di suonare una vera chitarra o un vero basso collegata a un Xbox, una PlayStation 3 o un PC con un cavo speciale contenuto nella confezione. In realtà non si tratta propriamente di un videogioco, ma piuttosto di un vero e proprio maestro di musica virtuale, capace di insegnare a suonare anche a chi non ha mai preso in mano una chitarra. Le aree evidenziate sul manico della chitarra, le posizioni di riferimento, indicano dove mettere le dita per suonare le note e dove muoverle per quelle successive. Passare da una posizione di riferimento a un'altra si dice spostamento. I neofiti potranno strimpellare i loro pezzi preferiti e nel frattempo imparare a suonare seriamente lo strumento, mentre i chitarristi con un minimo di basi potranno migliorarsi e imparare nuovi accordi o giri armonici. Preparati a suonare l'accordo completo. Ma la vera forza di Rocksmith è l'autenticità. Se non si impara a suonare realmente, non si va avanti e non si potrà accedere alle esibizioni live, cioè dei veri e propri concerti con tanto di pubblico in delirio, sulle basi, tra l'altro, dei brani più famosi che hanno fatto la storia del rock negli ultimi 50 anni. Quello della musica è da sempre un mondo affascinante, ma per molti anche un'esperienza fine a se stessa. È troppo tempo per imparare e poco per esercitarsi, scarsa pazienza e rinuncia alle prime difficoltà. Insomma, imparare a suonare uno strumento musicale richiede non solo talento, ma sicuramente molto impegno e tantissima costanza. A meno che misurarsi con la chitarra non voglia dire anche giocare con un videogame, al quale collegare persino uno strumento vero. E in questo modo cambia tutto, soprattutto per i nativi digitali. E in questo senso Rocksmith è la prova tangibile che sempre più computer e console stanno assumendo un ruolo multiforme nell'industria culturale e sono sempre più utili alla crescita personale. Le suggestioni del gastronauta. Davide Paolini, ciao, buona domenica. Buona domenica a tutti. Le tue suggestioni di oggi? La mia suggestione va verso il panettone. Eccolo allora, là, d'agosto, allora, molti, non può mancare. Molti potranno pensare che siamo a Natale, no? Con questo caldo non si può pensare a Natale. Però il 25 luglio, dalle 5 alle 8 del pomeriggio, a Milano partirà il tour del panettone d'estate. Da Itz, in Galleria del Corso, ci saranno 20 pasticceri che presenteranno le loro versioni estive, e di lì, con una macchina ad hoc fatta da una carrozzeria molto speciale, la carrozzeria castagna, partirà una macchina che consegnerà, diciamo, metaforicamente i panettoni in 20 località italiane, dove in piena estate, sotto l'ombrellone, si potranno mangiare, appunto, si potrà assaggiare il panettone, ma panettone in tante maniere: panettone con cioccolato e peperoncino, panettone al basilico, panettone al tè verde. Insomma, diciamo che i pasticceri italiani si stanno veramente sbizzarrendo con questa versione, che in realtà gli ha portato molto più lavoro, perché ha destagionalizzato un prodotto come il panettone. Del resto questo lo facevano già in Svizzera, perché non farlo anche in Italia? Tra l'altro arriverà perfino in Giappone il panettone d'estate, arriverà in ottobre, ma arriverà sicuramente anche là. Quindi sicuramente un'estate sotto l'ombrellone con il panettone. Io non sto a citare tutti i 18 posti dove avverrà questo evento, ma posso dire che avverrà nel Salento, a Capri, a Forte dei Marmi, a Pietrasanta, poi ancora a Pavullo, poi ad Avellino, poi potrei ancora continuare, quindi è un tour davvero, davvero straordinario. Quindi sento che sei molto, come posso dire, stupito, caro. No, sì, sai che la mia opinione su questa cosa, la mia opinione. Dai. Ma le tue col gelato. No, perché ci sono delle cose che non, ci sono delle cose che uno aspetta di gustare perché è quel momento, hai capito? Invece se. Vabbè. Eh sì, ma ora è il momento. È il momento dai, giusto. Dai, il momento è anche Ferragosto. Va bene, va bene, ok. Va bene. Ti do un'altra suggestione, eccola là. Questa dolcissima, dolcissima. Sì. E si tratta, incredibile ma vero, di confettura di nocciole, perché tutti pensiamo alla crema di nocciole, diciamo, sì. Oppure anche al cremino di nocciole. Ebbene, c'è una piccolissima azienda di un agricoltore di Cravanzana, che si chiama Azienda Agricola Grancia, che addirittura fa la confettura di nocciole. Devo dire che leggermente diverso dalla crema che lui stesso produce, del cremino. Credo che assaggiando questi tre prodotti, veramente, come posso dire, ho visto alcune persone che erano un po' titubanti, dopodiché mi sono girato e praticamente i vasetti erano completamente vuoti, finiti. Immaginavo. Quindi erano completamente vuoti e addirittura mangiati col pane, quindi da tanto era la verità. Quindi la confettura di nocciole di questa piccolissima azienda di Cravanzana, io veramente la consiglio agli amanti della nocciola, che per finire al gelato di nocciola, che veramente è straordinario. Allora, in fondo, una gelateria di Milano che ho scoperto recentemente grazie a un collega giornalista che me l'ha segnalato, ma veramente notevole, si chiama Ice Cream, è in via Crescenzago a Milano, quindi abbastanza fuori dal grande centro, però è un'ottima gelateria che consiglio, era una di quelle che mi era sfuggita. Ecco, bene, quindi poi se avete punti di interesse da far conoscere, non mancate di scrivere al Gastronauta per... Io, guarda, dico subito, le ricette della prossima settimana, sì, per chi vuole inviarlo, vuol vincere, devono essere a base di zafferano, quindi mandate a gastronauta@radio24.it. Ecco, poi faremo una serata con le ricette eseguite di quelle che hanno vinto, perché vorrei assaggiare poi quello che è stato scritto. Devo dire che, diciamo, nell'ultima tornata con le acciughe, veramente le ricette erano di notevole livello, anche intervenuto perfino il grande maestro Gualtiero Marchesi, quindi devo dire che c'è stato anche un tocco così suo su una ricetta, per cui devo dire che hanno fatto un grandissimo successo. Speriamo che anche lo zafferano porti altrettanto ricette e siano di grandissimo livello. Le ricette alla fine saranno 20 e quindi veramente si potrebbe fare un grande pranzo. Ma hai dato un'ottima idea, caro Stefano. E io vorrò essere lì in quel momento. Grazie, ciao Davide, a domenica prossima. Buona domenica a tutti. A te. Manè in 24 minuti. Per voi la possibilità di portare a casa i biglietti per la mostra Manè Ritorno a Venezia a Palazzo Ducale fino ad agosto, se riuscite ad associare la canzone che vi faccio ascoltare al titolo, in questo caso di un'opera dell'artista. E il numero per partecipare 800 24 00 24, ed ecco la canzone. I più forti però siamo noi, qui non serve mica essere in tanti, si parlava con tenacità di speranze e possibilità. Tra un bicchier di whisky ed un caffè tiravi fuori poi perché e proponevi i tuoi sarà. Priscilla D'Alecco, buona domenica, ciao Priscilla. Ciao. Eccoci qua, allora, una canzone molto famosa di Gino Paoli, Quattro amici al bar, e un'opera altrettanto famosa di Manè che ha a che fare sicuramente con questa canzone. Allora, non so come aiutarti, perché potrei aiutarti dicendoti il titolo, ma è così, è troppo facile. Diciamo che il titolo del quadro ha molto a che fare col titolo della canzone, Quattro amici al bar. Allora, secondo me potrebbe, sono indecisa un po' tra due. Una, devi scegliere, sì. Una è un bar alla Folie Berger. E l'altra? E l'altro la cameriera con i boccali. Devi scegliere uno dei due, però. Un bar alla Folie Berger. Hai scelto giusto. Brava. Oh. Brava Priscilla, grazie. Grazie. Ciao, a voi. Buona domenica. Ciao, grazie. Ciao. Elisa da Novara. Sì, ciao. Ciao, ciao Elisa, anche tu sapevi la risposta, immagino. Ecco, sì, no, ero indecisa fra due, ma. Ecco, sì, però adesso. Tanto adesso non devi essere indecisa fra niente, perché cambiamo completamente le carte in tavola. E ti faccio ascoltare una canzone. E mi devi dire quella canzone cosa ha a che fare con un momento della vita di Manè. È facile e ti aiuterò sicuramente molto. Ascolta con attenzione, Elisa. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, it's wonderful, I dream of you. Chips, chips. Do do do do do chip chip. Do do do do do chip chip. Do do do do. Ti reggo un messaggio arrivato qualche tempo fa, cioè nella puntata di oggi, e diceva: ascolto Radio 24 perché trasmettono poca musica ma sicura e bella. E infatti è vero, insomma, questa è una bellissima traccia di Paolo Conte, famosissima, che è Via con me. Elisa, sì. Non so se ti piace Paolo Conte. Sì, ma non lo conosco molto. Non lo conosci molto, allora... No. Paolo Conte è un cantautore molto popolare, conosciuto tanto in Francia, ma in realtà lui potrebbe svolgere anche un altro mestiere. E quel mestiere lì è quello che non ha voluto fare Manè. L'avvocato. Sei stata molto brava, sì, Elisa. Ma perché sapevi di Paolo Conte o perché sapevi di Manè? No, mio marito sa di Paolo Conte. Ah, lui ti ha suggerito? Sì, sì, sì. Ah, vabbè, sì, quindi sì, andate sì, insieme sì. A vedere la mostra, mano nella mano, sì. Mi raccomando, perché lo devi a lui, se, bravo. Grazie Elisa, bravi tutti e due. Grazie. E buona domenica, ciao, okay, grazie. Grazie altrettanto, ciao. Ciao, Martina da Padova. Sì, buongiorno. Ciao Martina, per te altra domanda ancora, qui si cambia in fretta oggi. Abbiamo sempre una canzone per te e il titolo di un'opera di Manè, molto legata ovviamente a quello che ti farò ascoltare. Non so se conosci questa canzone, ebbe un po' di successo, ma andiamo indietro nel tempo, credo che sono gli anni Ottanta. E mi viene da ridere a sentire questa canzone, davvero tanto. Allora, Martina, tu te lo ricordi lui e questa canzone o no? No. No. Sai che canta? No, non riesce a ricollegare. Comunque, non riesco a collegare. Canta Miguel Bosé. Miguel Bosé. Sì. Mm-hmm. E la canzone è Bravi ragazzi. Bravi ragazzi. E questa canzone, col fatto che canti Miguel Bosé, ti porta al titolo di un'opera di Manè. Devi pensare al cantante, alla canzone. Quindi potrebbe avere a che vedere con la Spagna? Potrebbe. Martina. E può darmi qualche altro indizio? No, perché penso di aver detto già tutto. Sei lì, sei lì. Sì, sì, sono lì. Sei lì, è lì. Sento che è lì. Ho 20 secondi ancora, Il chitarrista spagnolo? No, avevamo già avuto come quadro, fra l'altro. Purtroppo no, ma mi dispiace, Martina, riprovaci. Anche a me, grazie. Anche a me, davvero, grazie. Grazie a te, ma grazie a tutti. Ci sentiamo domenica prossima, puntuale alle 10 con il riposo del guerriero. Grazie a Giorgio De Luca in redazione, Paolo Corleone in regia. E a voi, come sempre, buona settimana da Stefano Gallarini. Oh!